La domenica ad Ars. Molti pellegrini facevano in modo di passare ad Ars la domenica. Là, ha raccontato una delle assidue penitenti del nostro santo, grazie allo zelo di Don Vianney, la domenica, tanto profanata nella sua parrocchia prima della sua venuta, divenne veramente il giorno del Signore. C'erano numerose comunioni. La chiesa non si vuotava mai. L'affluenza alle funzioni religiose, che pure erano celebrate a brevi intervalli, era assai considerevole. Il curato teneva il catechismo all'una dopo pranzo. C'era quasi tanta gente come a messa. I vespri erano seguiti da compieta. Poi c'era la recita del rosario, alla quale prendevano parte tutti. Al calare della sera la campana chiamava di nuovo alla chiesa per la terza volta. Per la terza volta la parrocchia rispondeva all'invito. Allora Don Vianney usciva dal confessionale, recitava le preghiere della sera e chiudeva la domenica con una di quelle toccanti omelie che ero tanto contento di poter ascoltare. Mi impressionava il contegno di quei bravi cristiani, specialmente quello che le madri esigevano dai loro bambini. La nostra permanenza ad Ars, riferisce un altro testimonio, si prolungò fino alla domenica. Quel giorno la funzione cominciò alle 8 e durò fino alle 11. Prima della messa ci fu la processione e al Vangelo la predica. La chiesa era piena e vi regnava un raccoglimento straordinario. Sembrava di assistere ad una scena della chiesa primitiva, ad una riunione dei primi cristiani. L'unico difetto che Don Vianney poteva rimproverare ai suoi buoni parrocchiani era che troppo spesso arrivavano in ritardo alle funzioni religiose. I contadini della Domb avevano a questo proposito una inveterata negligenza. Ancora nel 1850 il santo non aveva potuto ottenere completa vittoria. Incaricò fratello Gerolamo, suo sacrista, di fare il giro della chiesa prima dell'asperges della messa solenne e di praticare con tutta suavità il compelle entrare. Fratello Gerolamo usciva quindi sulla piazza e pregava i ritardatari di affrettarsi ad entrare. Da principio esitarono ad obbedire, ma poi ne presero l'abitudine e infine il curato d'Ars ebbe la gioia di vedersi attorno i suoi cari parrocchiani sin dall'inizio delle cerimonie. Ora, mentre l'uomo lodava Dio nei campi e negli orti, c'era riposo. Se al tempo dei raccolti ci furono dei violatori del riposo festivo, furono assai rari e lavoravano di nascosto e meno che potevano. Da noi, diceva un bravo uomo, il rispetto umano è inteso alla rovescia. Più ancora, in paese di domenica non si teneva più nessun commercio. Don Vianney non permetteva che i negozi fossero aperti e rifiutò sempre di benedire gli oggetti acquistati nascostamente in quel giorno. Così pure, di domenica, i parrocchiani si astenevano da qualsiasi viaggio, a meno che non ci fosse una ragione assai grave come un lutto, una visita ad un ammalato grave. Nessun rumore assordante, neppure il cigolare d'una vettura, venivano a turbare la pace di quel giorno. Il nostro santo curato, racconta Francesco Pertinan, il vetturale corriere d'Ars, non mi autorizzò mai a viaggiare di domenica nei giorni di festa, ed anche gli altri vetturini non lavoravano. Quando fu costruita la ferrovia, la compagnia di cui ero corrispondente volle che il servizio non fosse interrotto. Allora Don Vianney non volle che le vetture entrassero in paese o ne partissero in quei giorni. Tuttavia, senza darmene espressamente il permesso, mi lasciò caricare i viaggiatori fuori dalle prime case o condurli fino là. Un fatto straordinario, che allora fece molto rumore, parve aggiungere alle prescrizioni del curato d'Ars una conferma celeste. Nel 1856, scrive Don Monnin, la domenica nell'ottava del Corpus Domini, durante la messa cantata, una diligenza era arrivata di fronte alla chiesa. C'erano le porte aperte e si poteva vedere all'interno della chiesa il Santissimo Sacramento esposto. I cavalli che correvano al trotto improvvisamente si inchiodarono e, nonostante che il postiglione li sferzasse ostinatamente, rimasero immobili sotto i colpi di frusta, come l'asina di Balaam sotto il bastone del profeta. La diligenza dovette per forza tornare all'albergo. Insomma, ogni domenica il villaggio di Ars presentava il raccoglimento d'un monastero, in cui il silenzio è rotto soltanto dal sacro suono della campana. Non c'era il solito baccano delle feste paesane. Non si vedevano uomini avvinazzati, rumorosi e barcollanti. Un signore che non poteva sopportare questa genia diceva: «Mi piace molto Ars, perché non si incontrano mai ubriachi». La gente di Ars passava il tempo, lasciato libero dalle funzioni religiose, facendo visite o in amichevoli trattenimenti. Gli uomini giocavano a birilli o a bocce. Dei buoni vecchi rimanevano silenziosi sulla porta di casa a contemplare tranquillamente gli orizzonti familiari. Così fece per lungo tempo Fleury Trev, padre di una famiglia di 15 figli. Seduto sulla porta di casa, tutte le domeniche dopo vespro recitava il rosario. Don Vianney introdusse l'usanza di solennizzare come la domenica certe feste dette di devozione, come i lunedì dopo Pasqua e dopo Pentecoste, il giovedì del Corpus Domini, le feste dei Santi Pietro e Paolo, di San Giovanni Battista, di San Sisto, della piccola cara Santa Filomena. In quelle feste la gente di Ars riempiva la chiesa per la messa cantata, per i vespri e per la predica serale. Nessuno per questo andò in miseria. Tuttavia il loro curato ci teneva ad affermare che quelle funzioni non erano obbligatorie. Chi aveva bisogno di lavorare lo poteva fare senza scrupolo, ma non ce n'era l'usanza. «Mi piacciono molto queste feste», diceva Don Vianney, «perché venite in chiesa senza esservi obbligati e solo perché guidati da un sentimento d'amore più perfetto». Anche nei giorni feriali c'erano una cinquantina di donne e una quindicina di uomini che assistevano alla Santa Messa. In molte famiglie si disponevano le cose in modo che per tutto l'anno ci fosse ogni mattina qualcuno della casa alla messa. I membri della confraternita del Santissimo Sacramento erano fedeli a portare la candela sia alle benedizioni che nelle processioni. Partecipavano alla loro ora di adorazione domenicale. Più d'uno, ad imitazione del buon Chaffanjon di santa memoria, prima e dopo il lavoro passava a salutare il Signore. Ed era una cosa impressionante vedere gli arnesi ancora sporchi di terra appoggiati durante la preghiera di quei buoni contadini al muro della vecchia chiesa. Il curato d'Ars non ottenne pari successo quando, dopo un periodo abbastanza lungo di severità, forse 20 anni, volle spingere i suoi parrocchiani ad accostarsi con maggior frequenza ai Santi Sacramenti. Non essendo riuscito a realizzare in pieno il suo desiderio, la comunione almeno una volta al mese o anche tutte le domeniche, pensò che anche un numero limitato di comunioni ben fatte sarebbe stato sufficiente, non solo a conservare, ma anche a far progredire in virtù la massa degli uomini e dei giovani della sua parrocchia. «Ho fatto di tutto», diceva verso la fine della sua vita, «per portare gli uomini a fare la comunione 4 volte l'anno. Se mi avessero ascoltato sarebbero tutti santi». Per raggiungere quel risultato aveva pregato e predicato. Il suo zelo l'aveva fatto ingegnoso. Ai meglio disposti suggeriva di celebrare gli anniversari più importanti della loro vita: battesimo, prima comunione, matrimonio, accostandosi ai Santi Sacramenti. Desiderava che si ricevesse la comunione prima di far da padrino o da madrina. Una delle più grandi gioie di Don Vianney durante la sua vita sacerdotale fu quella di distribuire la Santa Comunione. Avrebbe passato le sue giornate in quel consolante ministero che molte volte compiva con gli occhi bagnati di pianto. Il senso liturgico di un santo. Per attrarre più facilmente il popolo all'Eucaristia, il curato d'Ars s'era sforzato di comunicargli il gusto delle cose sante. E c'era arrivato. Ogni domenica, davanti allo sguardo di quella brava gente, dispiegava i più bei stendardi, gli addobbi più ricchi. Per lungo tempo aveva istruito personalmente i fanciulli del piccolo clero ed erano meravigliosamente preparati. Egli stesso però, nelle sue funzioni sacerdotali, col suo contegno grave e dignitoso, metteva la più grande cura in tutti i gesti liturgici prescritto dal rito lionese allora in vigore nella diocesi di Belley. Quando a partire dal 1849 divenne cerimoniere fratello Atanasio, il contegno degli inservienti non fu meno esemplare. Il suo senso liturgico era tanto fine, istruiva i fanciulli con tanta precisione e gusto, che Monsignor di Langalère, in un ritiro lo propose come modello al clero diocesano. Volete vedere una chiesa in cui si osservano alla lettera tutte le cerimonie? Andate ad Ars. Il fratello Atanasio è un cerimoniale vivente, impeccabile. Il suo esempio vi dirà ciò che potete ottenere anche voi, se lo volete. In certi giorni il contegno dei parrocchiani di Ars edificava particolarmente i pellegrini. Ogni anno, il giovedì santo, per commemorare l'istituzione dell'Eucaristia nel Cenacolo, Don Vianney, dice il canonico Pelletier, voleva che l'altare dell'adorazione fosse splendido e godeva allo spettacolo delle decorazioni che davano maggior risalto alla maestà del tabernacolo. Tutto il presbiterio, che aveva fatto considerevolmente allargare nel 1845, era ornato con stendardi. Una luminaria ben disposta brillava di mille luci, ma prendeva tutte le misure perché fosse aiutato e non turbato il raccoglimento dei fedeli. Infatti, in quel giorno, la parrocchia era tutta in adorazione. La sera iniziava l'esercizio dell'ora santa. Il curato passava in ginocchio, senza sedersi neppure un istante, la notte dal giovedì al venerdì santo. In paese, la festa del Corpus Domini era la festa delle feste. Era veramente uno spettacolo unico. In altri paesi potevano forse celebrarla con maggior magnificenza, ma in nessuna parte c'era più fede e più amore. Quella solennità rapiva il cuore del curato d'Ars e gli comunicava l'espansione e l'allegrezza ingenue d'un fanciullo. Soltanto nel modo con cui l'annunciava si sentiva che gli era specialmente cara. Quel giorno era un piacere vederlo. Per qualche ora il confessionale, una volta tanto, rimaneva vuoto. Il santo respirava, prendeva le sue vacanze. Andava in canonica a preparare gli inservienti. Non ce n'erano mai abbastanza. Una volta, raccontava il signor Lardet, che in quel tempo aveva 12 o 13 anni, aspettavo nel cortile con gli altri fanciulli. Arriva il curato. «Ragazzi», ci dice passando in mezzo a noi, «se aveste l'anima bianca come la vostra cotta», e sorrideva. Voleva che anche le fanciulle si vestissero di bianco, scrive Caterina Lassagne, e quelle della sua provvidenza erano le prime. Voleva che preparassero il maggior numero possibile di altari per moltiplicare le benedizioni sulla parrocchia. Col cuore traboccante di gioia circolava per le strade, si spingeva fino al castello, incoraggiando gli addobbatori e dando una mano egli stesso. Prima della processione trovava ancora il tempo di ritornare in chiesa, dove c'erano sempre ad aspettarlo dei pellegrini per confessare alcune persone. Alla cerimonia partecipava una enorme folla, perché ad Ars, la festa del Corpus Domini, si celebrava nella data liturgica, cioè il giovedì dopo la Trinità. La gente delle parrocchie vicine poteva perciò assistere a quella processione. Non mancava mai. Don Vianney non tollerava che ci fossero curiosi a far ala lungo il percorso, ma voleva che tutti entrassero nel corteo. Egli, che abitualmente si metteva all'ultimo posto tra i suoi confratelli, in quel giorno non cedeva a nessuno l'onore di portare il Santissimo Sacramento. Sotto il baldacchino offerto dal visconte di Ars, rivestito con paramenti sontuosi, procedeva con una maestà impressionante. Gli occhi fissi sull'ostia, pregava e piangeva. La folla era presa da un senso di commosso stupore. Dietro il baldacchino seguiva una marea di gente, dalla quale rompevano canti o mormorii di preghiera. Era veramente la festa di Dio. Un testimonio di quella splendida manifestazione popolare ce ne ha lasciato una narrazione, nello stile ampolloso divenuto allora di moda con il genio del cristianesimo. Mi ricordo, era un bel pomeriggio del mese di giugno del 1847. Il sole splendeva fra nubi di porpora e d'oro. L'aria tiepida era pregna di acuti profumi. Me ne andavo errando attraverso i campi, melanconico e triste, in cerca di solitudine. Senza accorgermene, ero entrato nella vallata di Ars. Me ne stavo seduto su un poggio accanto alle praterie che si stendevano ai miei piedi come verde oceano. Con la fronte tra le mani ero immerso in un profondo fantasticare. Ecco che ad un tratto scoppia con fragore una salve d'artiglieria a nord della valle. Le risponde, da mezzogiorno, una triplice scarica. A quel segnale le campane del villaggio irrompono a suonare a distesa. Guardo verso Ars e vedo da lungi una numerosa folla che si agita intorno alla chiesa, troppo piccola per contenerla. Sulle strade che portano al paese i cavalli ansanti affrettano la corsa verso la festa. Scorgo pure delle bandiere che sventolano in cima alla torre del castello vicino ed altre laggiù sul campanile. Era, lo capii finalmente, il Corpus Domini, la solennità da 20 anni celebre nelle nostre contrade. Discendo nella valle, prendendo la direzione da cui veniva il coro delle voci. Quale spettacolo si offre ai miei occhi stupefatti? Un'immensa processione composta di pellegrini venuti da tutti i paesi avanza dietro diversi stendardi e raggiunge la campagna. Ogni minuto echeggia dalla piazza un colpo di mortaretto, al quale dall'altra parte della valle, dove il castello, risponde un'altra detonazione. La processione avanza. Il baldacchino in drappo d'oro, l'ostensorio d'argento dorato, il piviale di broccato rilucente sotto i raggi del sole che dardeggiano tra i grandi alberi, il vecchio venerando curato del luogo che porta il dio delle genti. Al confine del territorio del comune e delle terre del castello è stato eretto un grazioso altare. L'incenso fuma nei turiboli, il baldacchino s'arresta. 2000 persone, inginocchiate per terra, curvano la fronte fino al suolo e il sacerdote, con mano tremante, alza lentamente l'ostensorio. La folla si è alzata, 9 scariche rispondono al nuovo Alleluia. Il luogo della scena è mutato. Abbiamo messo piede sul territorio del castello e improvvisamente lo scampanio si fa più concitato. Pare che annunci un incendio di gioia. Vi rispondono 10 colpi di mortaretto mentre la processione procede nei campi. Quale spettacolo! Si attraversa un ponte che è ornato di bandiere e di fiamme dai colori ardenti. Il gonfalone di Ars garrisce al vento con le fasce triangolari. Ogni albero sembra portare un mazzo di fiori. Infine ecco la cancellata di ferro del cancello ornata di gigli e il viale di sabbia. I grani d'arena sono meno numerosi delle foglie di rose sparse da una mano pia. La base della torre è decorata con tappezzerie antiche. La processione entra nel parco tra un'ala di limoni, quindi ritorna su se stessa, serpeggiando, fino alla cappella del castello. Un ritornello potente, sonoro, sgorga da petti robusti e si alza in un crescendo formidabile. All'improvviso, al tintinnio argentino di una piccola campana, s'arresta. Il curato d'Ars, con voce tremante, benedice da lontano il suo gregge. Le ultime parole del sacerdote sono sommerse da un osanna improvviso che fa tremare la cappella. Con la rapidità del fulmine raggiunge la processione inginocchiata intorno al parco e, mescolandosi allo scoppio pacifico dei mortaretti, corre d'eco in eco fino al fondo della valle. Nel leggere questo racconto entusiastico si potrebbe credere che la processione del Corpus Domini si celebrasse con un poco d'apparato guerresco, ma come ne erano felici quei bravi contadini, specialmente i vecchi, che avevano conosciuto le misere feste di un tempo. Forse ancor più di loro il curato era rapito nel sentire i ritornelli poderosi della moltitudine e il fragore generale dell'artiglieria. Nella processione del Corpus Domini del 1859, l'ultima alla quale abbia assistito il santo, 40 giorni soltanto prima della sua morte, il conte di Garezza, a sua insaputa, aveva invitato anche la banda del collegio di Mongré. Quando squillarono gli ottoni, Don Vianney traselì di allegrezza. Dopo la processione non sapeva come ringraziare i padri gesuiti direttori dell'istituto che gli avevano procurato quella bella sorpresa. Quell'anno, troppo esaurito, con grande rincrescimento, non poté portare il Santissimo Sacramento se non in prossimità degli altari. L'anno precedente, invece, per 2 ore aveva portato il pesante ostensorio e, nonostante i suoi 72 anni, quando saliva i gradini di quegli altari campestri, sembrava avesse l'agilità di un giovane. Qualche volta, è vero, tentennava, ora a destra, ora a sinistra, e temevano che cadesse. Ma solo i forestieri potevano avere tale timore. perché i suoi parrocchiani, che erano abituati a vederlo resistere a fatiche più massacranti, erano sicuri di lui. Lui poi, preso in un sublime cuore a cuore, non era affatto preoccupato. Dopo una processione del Corpus Domini, ha raccontato fratello Attanasio, quando tornò in sagrestia, inzuppato di sudore, gli chiedemmo: «È molto stanco, signor curato?» «Come volete che mi sia stancato? Quello che io portavo, portava me». Vita edificante e nostalgia dei pellegrini. Ars era diventato veramente un focolare di santità. Per riceverne l'immediata influenza, alcune persone fervorose vi si erano trasferite definitivamente o vi dimoravano a lungo. Le signorine Pignon, Lacan, Berger, di Belleville, le sorelle Ricotier, Marta Miard, i signori Faure de la Bastille e Pietro Oriol, Ippolito Paget di Beaucaire, Gian Claudio Viret di Cosan nel Giura, Sionnet di Nantes, Sanchez Raymond, ufficiale carlista esiliato dalla Spagna. Parecchi di loro si erano ritirati nel villaggio con la speranza d'essere consolati dal santo nelle loro ultime ore. Infatti, se era dolce vivere in quella parrocchia privilegiata, sembra fosse ancora più dolce morirvi. Mentre fu curato Don Vianney, ci furono morti particolarmente serene, edificanti, quasi aureolate d'una gioia divina. L'ultimo giorno dell'ottobre 1825, Luigi Chaffanjon, di 75 anni, l'uomo delle adorazioni silenziose, durante la sua agonia cantava con gli occhi raggianti di speranza: «Andrò a vedere la mia diletta madre». Nel Natale del 1832, la contessina Anna Colomba di Garez, di 78 anni, si spegneva nella pace degli eletti. Già abbiamo visto come si sapeva morire nell'orfanotrofio della provvidenza. Assistiti dal loro amato curato, quei buoni parrocchiani lasciavano questo mondo in modo tale che chi assisteva esclamava: «Se anch'io potessi avere la fortuna di andarmene così». Tanto è vero che alcuni abitanti dei paesi vicini si auguravano di essere assistiti da Don Vianney. Una persona si fece trasportare ad Ars per avere tale fortuna. Del nuovo cimitero, costruito nel 1855 a 300 metri dalla chiesa e benedetto da lui, il curato d'Ars amava ripetere: «È un reliquiario». Aveva assistito sul letto di morte le persone che vi riposavano ed anche alcuni peccatori. Di questi, al dire degli anziani del paese, nessuno riuscì a sfuggirgli prima del terribile passo. Il santo li riteneva tutti salvi. Il diavolo in persona ne diede prova a suo modo. Il profumo soprannaturale di quel paese di santità lo mandava in furore. «Che sporco paese il vostro Ars!» gridava un giorno sulla piazza per bocca di una ossessa che si agitava orribilmente. «Che puzza qui! Ad Ars sono tutti fetenti. Parlatemi della Rotonde, un luogo di riunione per certi quartieri di Lione. Alla Rotonde sì che c'è buon profumo». Anche da un punto di vista materiale, Ars sembrava coperto di speciale protezione. Mia madre, dice Maddalena Mandiscipiot, raccontava che dal 1825, quando lei era venuta in parrocchia, fino alla morte di Don Vianney non ha mai tempestato. Essa attribuiva il fatto all'intercessione del servo di Dio, tanto più che egli stesso voleva che si pregasse per scongiurare il flagello. È stato notato, aggiunge Marta di Garez, che durante tutto il suo ministero ad Ars nessun uragano devastò il comune. Mia madre scriveva un giorno dopo un temporale: «Il tuono per noi non è stato che una voce che si spegne. Il curato aveva passato la notte in preghiera». Dopo quanto abbiamo detto, non c'è da meravigliarsi che tanti forestieri che potevano rimanere ad Ars solo pochi giorni si siano tanto affezionati a quel paese benedetto. Soprattutto quelli che ne avevano capito l'anima e gustato profondamente la pace, quando dovevano tornare al paese nativo, pareva che andassero in esilio. «Non fu senza tristezza che ce ne allontanammo», racconta uno di quei pellegrini. «Come abbiamo potuto così presto affezionarci? In quel luogo sconosciuto avevamo incontrato quella serenità dell'anima che porta a chiamare patria ogni luogo, dove è dato gustarla. Tra il rumore e l'agitazione della città non potevamo difenderci dalla noia e dalla malinconia.